Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore, soprannominato Bombolino, a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi, a gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte, parleremo dei fatti che avvennero davanti alla Bussola, un locale di Marina di Pietrasanta, allora molto famoso, il 31 dicembre 1968. Era il 1968, appunto, l'anno della contestazione, della rivolta del maggio francese. Nel corso dell'anno ci sono stati gli scontri con la polizia a Valle Giulia, la rivolta degli operai di Valdagno, l'assalto alla sede del Corriere della Sera a Milano, le grandi manifestazioni degli operai Fiat a Torino, la contestazione ai grandi magazzini di Padova e Milano, la polizia che aveva sparato sui braccianti di Avola. Sono state occupate le università di Firenze, Bari, Cagliari, Roma, Bologna e di molte altre città italiane. Il 7 dicembre 1968 c'era già stata una clamorosa protesta alla Prima della Scala. Gli spettatori vengono accolti fuori dal teatro dai manifestanti con il lancio di uova e con un cartello che grida: "I braccianti di Avola vi augurano buon divertimento". I contestatori non ce l'avevano con la Scala, ma con la borghesia milanese, con i vecchi e i nuovi ricchi del boom, con il potere economico e politico da loro rappresentato e dalle forze dell'ordine difeso. Le uova erano lo strumento per colpire i simboli della ricchezza, per macchiare fisicamente e moralmente i simboli dell'ostentazione. Questo episodio ha un forte effetto di riproduzione in tutte le situazioni di movimento. In Versilia esistono decine di locali notturni che d'estate lavorano a pieno ritmo, per poi riaprire nella stagione invernale con grandi feste. I prezzi sono altissimi e solo la grande borghesia può accedervi. Tutte queste circostanze fanno della scadenza del 31 dicembre 1968 una data simbolica a cui la contestazione della Scala assegna un maggiore spessore politico. Il 29 dicembre viene diffuso da Il Potere Operaio di Pisa un volantino dal titolo Champagne e Pomodori, in cui possiamo leggere: "I bambini, quando hanno un quaderno nuovo con le pagine bianche, fanno mille progetti di tenerlo in ordine, di scriverci con la migliore calligrafia. Nel calendario dei padroni il Capodanno ha la stessa funzione: offrire a chi quotidianamente sfruttato, immiserito e stupidito dal dominio capitalista la truffa finale. L'anno vecchio ti ha dato miseria, licenziamenti, super sfruttamento, servitù. Ebbene, puoi buttarlo via con i cocci vecchi dalle finestre. Ti resta davanti l'anno nuovo, il bel quaderno nuovo tutto da scrivere. Questo è il discorso che conviene ai padroni. Sono Sospendiamo le ostilità, tanto quello che è stato. Ora tutto è diverso, è un altro anno. Ma il nostro quaderno ce l'hanno già scritto loro, col linguaggio di sempre: miseria, licenziamenti, supersfruttamento, servitù. E poi prosegue. Il nuovo anno ci porterà quello che sapremo conquistarci. Sul quaderno bianco i padroni vogliono risolvere i loro vecchi e grassi conti. Tocca a noi riempirlo con una storia diversa. Lasciamo ai padroni lo champagne, noi abbiamo i pomodori. Il potere operaio che firma il volantino è un gruppo della nascente sinistra extraparlamentare che opera a Pisa, in Versilia e in tutta la parte nord-est della Toscana. È un gruppo operaista, il cui leader è Adriano Sofri, che pubblica un giornale, Il Potere Operaio, appunto. Sarà la componente più importante da cui successivamente nascerà Lotta Continua. Il giorno dopo esce un nuovo volantino dal titolo Buone feste, vi dicono i padroni. Sempre a firma Il Potere Operaio. Ne leggo alcuni stralci. Buon Capodanno, buone feste, ti dice il tuo padrone consegnandoti il pacco dono. Buone feste, ti dice il manifesto pubblicitario. Buon Capodanno, ti dice la vetrina del Lupin, che ti invita a spendere le ultime lire della tredicesima, su cui la direzione ha già fatto la sua trattenuta, come alla Saint-Gobain, per via degli scioperi. Buone feste, ci ha detto l'Apollo 8, parecchi miliardi di dollari buttati intorno alla Luna in nome del progresso dell'umanità, mentre negli Stati Uniti ci sono milioni di uomini che crepano di fame e di freddo, ma per le feste abbiamo lo spumante e il panettone. E poi prosegue. Buone feste, operai, lavoratori, studenti, dicono i padroni, pensate a bere, mangiare e divertirvi. Dimenticate che il 68 è l'anno del Maggio francese, delle lotte di massa di studenti operai, della Cecoslovacchia, dell'intensificazione nella rivolta dei popoli del Terzo Mondo. Dimenticate che solo qualche settimana fa la polizia ha massacrato due braccianti ad Avola, ha bastonato i proletari in lotta in centinaia di manifestazioni. E poi il volantino si conclude così. Ebbene, compagni. Festeggiamoli questi nostri padroni. Andiamo tutti alla bussola, alla capannina, da Oliviero, a vederli sfilare con le loro signore, col vestito nuovo da mezzo milione, a consumare una cena da 50.000 lire, annaffiata da 50.000 lire di champagne. Ai grassi padroni e alle loro donne impellicciate vogliamo quest'anno porgere personalmente i nostri auguri. Sarà solo un piccolo simbolico omaggio ortofrutticolo per prepararli ad un 1969 denso di ben altre emozioni. Il 31 dicembre 1968 viene diffuso un altro volantino del Potere Operaio di Pisa, in cui possiamo leggere: considerato il grande entusiasmo popolare suscitato dalla proposta di fare una sorpresa ai nostri gentili padroni, che in gran numero trascorreranno l'ultimo dell'anno alla bussola, abbiamo pensato di dare alcune indicazioni pratiche per tutti coloro che appoggeranno questa iniziativa, che ci auguriamo ricca di emozioni. E poi il volantino conclude: festeggiamo i padroni e le loro signore, un tono ironico, come possiamo constatare, che non fa assolutamente presagire cosa accadrà quella notte. Per chi fosse interessato, è possibile leggere o scaricare la collezione quasi completa del Potere Operaio di Pisa sul sito archivioautonomia.it e molti volantini e documenti di allora. Nella notte di Capodanno arrivano quindi davanti alla bussola centinaia di militanti e studenti, armati unicamente di pomodori e ortaggi vari. A presidiare il locale vi è solo un piccolo gruppo di carabinieri che inizialmente sembra tollerare la contestazione, ma partendo da episodi marginali, improvvisamente la situazione precipita in modo drammatico. Ed ora ascoltiamoci un pezzo dedicato ai fatti della bussola di Pino Masi, Quella notte davanti alla bussola. Quella notte davanti alla bussola, nel freddo di San Silvestro. Quella notte di Capodanno non la scorderemo mai. Arrivavano i signori sulle macchine lucenti e guardavano con disprezzo gli operai e gli studenti. Le signore con l'abito lungo, con le spalle impellicciate, i potenti col fiocchino, con le facce inamidate. Erano gli stessi signori che ci sfruttano tutto l'anno, quelli che ci fanno crepare nelle fabbriche qui attorno. Son venuti per brindare dopo un anno di sfruttamento, a brindare per l'anno nuovo che gli vada ancora meglio. Non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi per difendere gli sfruttatori. Una tromba ha squillato quando già i carabinieri hanno corso ed han picchiato. Come son belli i carabinieri quando picchiano con le manette i compagni studenti medi dai 14 ai 17. Non la smettono di picchiare se il colonnello non alza un dito. Sono l'immagine più fedele del nostro ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori per raggiungere gli automezzi. Decidiamo di resistere e si fan le barricate, sono per meglio difenderci dalle successive ondate. Dalla prima barricata alla zona dei carabinieri sono circa 40 metri, tutti sgombri e tutti neri. Quando cominciano ad avanzare uno di loro spara in aria, i compagni tirano sassi per cercare di fermarli. Loro si fermano un momento, poi continuano ad avanzare, non è più uno soltanto, sono in molti ora a sparare. Dalla prima barricata vediamo bene le pistole, ma dalla seconda i compagni pensano che siano colpi di castagnole. Ci riuniamo tutti insieme alla seconda barricata e gli sbirri tornano indietro, vista la brutta parata. Ancora un'ora di avanti indietro, noi con i sassi, loro sparando, e tutti crediamo che sparano a salve anche da dentro un autoblindo. Ad un tratto vedo cadere un compagno alla mia destra, in ginocchio con un buco ed il sangue sui calzoni. Mi volto e grido: sparano davvero! E corro indietro di qualche passo. Due compagni portano a spalle il ferito nella gamba. Correndo forte sulla strada con alle spalle i carabinieri, vedo Ceccanti colpito a morte, trasportato sul marciapiede. Malgrado gli sforzi per aiutarlo, è difficile trovare soccorso mentre gli sbirri ti corrono dietro e non ti danno un po' di riposo. Ho trovata un'auto utilitaria e portato via Ceccanti. Non ci resta altro da fare che scappare tutti quanti. Forse alla bussola per questa notte i padroni si sono offesi, loro che offendono e ci uccidono per tutti gli altri 12 mesi. Sarebbe meglio offenderli spesso e non dare mai loro respiro, tutte le volte che loro signori capitan sotto il nostro tiro. E a questo punto mi sembra opportuno fare qualche considerazione sulle diverse brutte facce che ci mostra oggi il padrone. Lui ha i soldi per comprarci, il lavoro per sfruttare, i suoi armati per ucciderci, la TV per imbrogliare a noi non resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà che per noi vale ben poco. Non ci resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà che per noi vale ben poco. Racconteranno successivamente coloro che parteciparono alla contestazione quella notte. L'azione da noi promossa senza l'intervento violento, improvviso e all'apparenza immotivato dei carabinieri non sarebbe mai andata oltre il limite e lo scopo che ci eravamo prefissati. Al momento della prima carica, occasionata da un banale incidente con un fotografo, la nostra manifestazione di protesta si era praticamente esaurita. È stata la violenza dei carabinieri e della polizia che ha sistematicamente spinto le cose oltre il limite che ci eravamo preposti. Alla prima carica ne è succeduta una seconda, durante la quale, secondo quanto risulta da quasi tutte le testimonianze, si è fatto ripetutamente uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine. Non vi era stata fino a quel momento una reazione significativa da parte dei dimostranti, non vi era stato sbandamento o situazione di pericolo tra le forze dell'ordine. Anche per questo la maggior parte dei presenti non credette ai propri occhi, vedendo i lampi uscire dalle canne delle pistole e ritenere che si trattasse di spari a salve. La sassaiola e le barricate sono venute dopo. È a questo punto che è caduto Soriano Ceccanti ed una palla di striscio ha perforato contemporaneamente i pantaloni di un altro giovane. A questo proposito vale la pena di sottolineare come ancora oggi la stampa patronale e la RAI continuino ad affermare che il Ceccanti sarebbe stato colpito alle spalle o più semplicemente tendono ad insampiare questo elemento. Mentre in realtà è appurato che la pallottola è entrata alla base del collo, sul davanti, probabilmente mentre il Ceccanti, che si trovava sulla prima barricata, era piegato in avanti. Soriano Ceccanti sopravviverà, ma purtroppo rimarrà paralizzato. Soriano Ceccanti, negli anni seguenti, diviene un campione di scherma, partecipa alle Paralimpiadi di Seul, di Barcellona, di Atlanta, di Sydney, conquistando una medaglia d'oro, 4 medaglie d'argento e 5 di bronzo. Costituisce una compagnia teatrale, la Nastro Adesivo 43, ed una ONG, con una donna paraplegica congolese che, per aiutare i paraplegici africani nell'avviamento al lavoro. A luglio del 2013 Soriano ha dovuto subire anche gli effetti di un'assurda burocrazia. Gli è stata revocata la pensione di invalidità perché ha trascorso lunghi periodi in Marocco e secondo i funzionari dell'INPS la pensione viene sospesa a chi vive all'estero per più di un mese. Il problema è sorto per la sua assenza ad una visita di controllo, purtroppo inutile, visto per lui l'impossibilità di guarigione. Rimane il fatto che i carabinieri hanno condannato Soriano Ceccanti ad una vita peggiore di quella che avrebbe potuto vivere se non gli avessero sparato. Quella notte furono arrestati anche 55 dimostranti. A proposito dei depistaggi dell'autorità inquirente, prontamente ripresi dai mass media, ci ascoltiamo un pezzetto di un servizio del TG1 di quei giorni. Traccia di due di questi colpi di pistola sono state trovate su due vetrate, di un distributore di carburante. Eccoli qua, uno a questa altezza e uno più in alto. Un terzo colpo è purtroppo quello che ha ferito il giovane di Pisa, Soriano Ceccanti. Nelle indagini che sono state subito avviate per identificare l'autore del ferimento, è intervenuto un elemento nuovo. Vi mostriamo adesso il posto in cui la pistola è stata ritrovata. È qui su questo campo, esattamente proprio nel punto contrassegnato da questo sasso. È una pistola di fabbricazione straniera, a tamburo. Nel tamburo sono stati trovati 3 bossoli, cioè tre bossoli di cartucce esplose, di colpi esplosi, e due proiettili ancora interi. La barricata, la prima delle due, anzi delle tre barricate che sono state alzate lungo la strada, era in corrispondenza del passaggio pedonale che vedete sullo sfondo. Solo successivamente verrà appurato anche dalla magistratura che era stato un proiettile esploso da una pistola 9 mm, in dotazione all'arma dei carabinieri, a colpire alla colonna vertebrale, alla base del collo, il sedicenne Soriano Ceccanti. In un volantino diffuso sempre a firma Il Potere Operaio il 5 gennaio 1969 dal significativo titolo «La rete delle menzogne comincia a smagliarsi», viene fatto un resoconto dell'inchiesta in corso. Leggo l'inizio. «Dopo giorni che la radio, la TV, i giornali padronali, i questori, i comandanti dei carabinieri, della polizia e della stradale hanno continuato a negare spudoratamente che le forze dell'ordine e degli sfruttatori hanno sparato alla bussola, le prime crepe si stanno aprendo nella colossale montatura». Lo stesso procuratore della Repubblica di Lucca, nella sua conferenza stampa del 3 gennaio, ha abbandonato le certezze assolute per ricorrere alla strana formula secondo la quale le azioni della polizia sarebbero state fatte senza l'uso diretto delle armi. Cosa significa questa frase ambigua? Che la polizia ha fatto uso indiretto delle armi? Che ha sparato, ma non sui dimostranti, bensì in aria? Ma non ci avevano raccontato che neanche un colpo era partito dalle canne dei poliziotti? Che tutti i caricatori erano stati controllati, le pallottole contate, eccetera? Come si spiegano queste contraddizioni? La risposta è molto semplice. La prima versione ufficiale, secondo la quale la polizia non avrebbe sparato neanche in aria, non regge più. L'intero edificio di menzogne comincia a barcollare. Viene fuori la formula dell'uso indiretto delle armi. In un'intervista Adriano Sofri analizza quanto successo. Ascoltiamone uno stralcio. L'azione sul Natale, sul Capodanno, sul significato che questi momenti hanno, non solo sul piano economico per i padroni, ma sul piano dello stesso prevalere della loro ideologia a livello di massa, della complicità che viene ricercata in questi momenti da parte degli stessi sfruttati coinvolti nel loro sfruttamento, era un'azione quindi programmata e all'interno di tutta questa iniziativa di lungo periodo che a Pisa viene condotta non da una piccola avanguardia ma già da nuclei fortemente politicizzati e continui di movimento e di lotta. È stato in questa fase e all'interno di tutta questa iniziativa che è venuta la proposta dell'azione alla bussola, è venuta spontaneamente da giovani, soprattutto da giovani di diverse province, dagli studenti medi che avevano dietro le spalle una lunga e dura lotta condotta nelle loro scuole subito prima delle vacanze di Natale. Questa proposta è stata accolta e vista dagli stessi compagni del Potere Operaio non come così l'episodio, la parentesi all'interno di un lavoro metodico, organizzato, organico, eccetera, ma come un momento di questo lavoro e di questa attività, un momento di iniziativa diretta che valesse a chiarire esemplarmente a livello di massa e sviluppare il discorso che veniva portato avanti. Questo è il motivo per cui siamo andati alla bussola e ci siamo andati annunciandolo pubblicamente prima e ci siamo andati assolutamente non a cercare lo scontro con la polizia o la violenza contro i borghesi, ma a compiere un'azione dimostrativa. Questa è anche la ragione per cui non possiamo assolutamente accettare la solidarietà paterna e paternalistica di chi oggi tenta di difenderci o finge di difenderci dalla violenza della repressione borghese, ma mette in disparte o sempre più chiarisce il proprio dissenso dal significato dell'azione che noi abbiamo condotto. Certo, la violenza della polizia che spara è una cosa gravissima e tremenda, ma è grave per noi che si tenda a mettere tra parentesi, a non spiegare il significato politico di azioni come quella che abbiamo condotto, a considerarle come momenti episodici e poco significanti dell'azione politica che viene in corso. Perché la polizia ha sparato? Di fronte a questa domanda dobbiamo trovare una risposta e dobbiamo trovarla in modo collettivo, perché c'è evidentemente una ragione politica che va ben al di là del nostro interesse locale a rispondere precisamente. Innanzitutto Viareggio viene dopo Avola e viene dopo che la campagna terroristica, la campagna di delazione, la montatura di tutti gli organi di stampa e di comunicazione contro la crescita del movimento studentesco, della lotta di classe a tutti i livelli nel nostro paese, si è fatta sempre più selvaggia e forsennata. E Viareggio è stata utilizzata in un modo mai prima visto da tutti questi organi, da tutte le autorità costituite, come un'occasione fondamentale di sperare un attacco decisivo, un attacco a oltranza contro questa stessa crescita di lotta e non solo contro il modo in cui essa si era sviluppata in una singola zona a Pisa o in genere nella Toscana. Questa è una prima cosa per noi estremamente importante. Viareggio cioè testimonia di una volontà precisa di usare fino in fondo degli strumenti più violenti e più aperti della repressione, e che non contraddice alla possibilità di presentarsi come i nuovi riformatori, come gli autori del nuovo corso sociale, e che anzi fa tutt'uno con questo tentativo. Da una parte, così, illusione riformistica che marcia ben avanti, che raggiunge il tipo di discorso che si fa oggi sulle assemblee studentesche, come persino sulle assemblee operaie, e che va di pari passo con l'incremento della violenza più aperta e più programmata. In questo clima si inserisce tutta la montatura mostruosa, enorme, gigantesca che è stata organizzata subito dopo la bussola, con una rapidità e con una efficacia assolutamente sorprendenti. Vengono poi prodotti diversi documenti da Il Potere Operaio, nei quali viene fatto un grande lavoro di controinformazione. In uno di questi, dal titolo «Dopo il Viareggio, rivoluzione culturale e organizzazione», possiamo leggere: «Non ci aspettavamo che la polizia sparasse. Questo è il giudizio unanime dei compagni che erano presenti alla bussola. Si insulterebbe l'intelligenza dei compagni del Potere Operaio se si attribuisse loro, come pare è stato fatto dal coro dei ranocchi della stampa patronale e governativa, l'intenzione di arrivare a uno scontro duro, addirittura armato, contro la polizia. Ma siccome si è sparato, questo significa che le analisi e le previsioni politiche fatte dal Potere Operaio erano sbagliate o comunque insufficienti. Tuttavia si è sparato a man salva in un ripetersi di cariche che, stando alle testimonianze, non sono avvenute nei modi regolamentari. Si è sparato e colpito, ma non si è potuto dire: sì, noi carabinieri, noi poliziotti della strada, siamo stati costretti a sparare dinanzi a una folla in fuoriuscita. Al contrario, si è dichiarato e fatto dichiarare dal ministro Restivo che non si è sparato. Si è assunto un atteggiamento tale che i testimoni oculari si sono sentiti intimiditi. A Viareggio, nei bar, si dice che la polizia ha sparato, ma non ci si presenta a testimoniare davanti ai giudici. Si è naturalmente corsi ai ripari, imbastendo autentici gialli che hanno avuto ampia eco sulla stampa. Bisogna far credere che erano stati manifestanti, armati fino ai denti, a sparare, magari a colpire lo stesso Ceccanti, ad attentare alla vita del proprietario della bussola. Si è parlato di bagagliai di auto ridotti ad arsenali e un'automobile del Potere Operaio sarebbe stata graziosamente lasciata a due passi dalla bussola con il suo bravo carico di ordigni offensivi. Ed ora un po' di musica. Stop al panico degli Isola Posse All Stars. Per capire, non c'è ragione non aspettare di morire. Scopri l'inganno, il piano per impaurire una città segnata dal dolore. Scegli il modo giusto per cancellare questo panico che vogliono far crescere. Cerca di capire bene cosa voglio. Dire, c'è qualcuno che ci vuol far morire prima che nel corpo, nell'animo, nel cuore. E qualcun altro che sa cosa fare, perché è il momento buono per approfittare della paura costruita col fucile, pronti come avvoltoi per colpire, cadere al suolo, chiudere, sgomberare centri sociali e case occupate. Chiaro!

Fin dalla prima notte di fronte a Ceccanti ricoverato in ospedale circolarono le versioni più tragicamente ridicole. Qualcuno tentò di negare che Ceccanti fosse stato colpito da un proiettile, sostenendo che si fosse trafitto cadendo. Qualcuno tentò mostruosamente di insinuare che a sparare a Ceccanti fossero stati i dimostranti stessi. Questori, colonnelli, autorità di ogni sorta si affrettavano intanto a negare, senza esitare in modo intimidatorio, che i carabinieri avessero sparato. La nazione, campione di fascismo, arrivava addirittura a rimproverare i carabinieri di essere stati troppo prudenti e di non aver saputo tutelare l'incolumità pubblica. I volantini, che in tutta Italia protestavano contro l'aggressione poliziesca e denunciavano il ricorso alle armi, venivano immediatamente incriminati. Dapprima si sosteneva, vedi Questura di Lucca, che i colpi erano stati sparati dai dimostranti. Poi si ripiegava sulla invenzione dei colpi sparati dai clienti della bussola esasperati. Belli questi clienti della bussola che vanno a festeggiare con la Ferrari, la donna impellicciata e la Smith & Wesson nella tasca dello smoking. Il governativo giorno scriveva il 2 che la polizia davanti alla bussola era senza armi. L'Avanti scriveva lo stesso giorno che 8 automezzi dei carabinieri erano stati bruciati con ottima fantasia. Molte cronache riferivano che erano stati eseguiti gli squilli di tromba regolamentari, cosa falsa. Riportava il Telegrafo. Di 6 colpi il Corriere della Sera e così via. Secondo la cronaca del giorno, gli scontri erano proseguiti fino alle 2, dicendo che il cronista del giorno non era riuscito a distinguere gli spari polizieschi dai mortaretti che salutavano il nuovo anno, e non si può dargli torto. Ceccanti è stato colpito alla scapola sinistra, afferma il giorno. Alla spalla, scrive l'Avanti. Alla spalla destra, dice la Stampa. Secondo la Stampa, i manifestanti avevano fin dall'inizio fatto una barricata. Il titolo più significativo, a parte il fascismo forsennato dei titoli a tutta pagina della Nazione, era quello del giorno. Si è sparato, giovane ferito gravemente. Dove il lettore ignaro può anche immaginare che il giovane si sia sparato da solo. Le cronache del 3 si concentrano sul ritrovamento della pistola, ritrovamento effettuato da 3 giovani. Sarà interessante stabilire chi sono. Una pistola a tamburo viene così, per caso, trovata da alcuni estranei dopo che per 2 giorni interi la polizia scientifica ha setacciato millimetro per millimetro la zona. Noi abbiamo fiducia nella competenza della polizia scientifica e ci permettiamo di restare perplessi. Bernardini, il padrone della bussola, si ricorda, solo dopo 2 giorni, che un giovane gli ha sparato con la pistola 6 proiettili addosso, di cui uno l'ha sfiorato. Secondo altre cronache, Bernardini è incerto se si trattasse di un giocattolo o di una pistola vera, ma mancano i segni dei proiettili sul muro retrostante. Il resoconto prosegue e fa capire che tutti coloro che fanno parte dei poteri dello Stato, con la complicità dei mass media, sembrano protesi al negare la verità su ciò che è successo quella notte. Il lungo documento si conclude con queste parole. La nostra proposta è questa. Impegniamoci nei prossimi giorni nella mobilitazione e nella discussione comune. E dove è possibile, con prime forme di lotta tra gli operai, tra gli studenti, nei quartieri, nei paesi, colleghiamoci ai compagni di tutta l'Italia. Prepariamoci per una scadenza prossima, una grande giornata di lotta contro la repressione, una grande giornata di discussione e di iniziativa collettiva. Il potere operaio ed altre organizzazioni di sinistra proseguono per mesi nel lavoro di controinformazione e di raccolta di testimonianze. Ad esempio, viene rilevata la presenza, quella notte, di agenti in borghese che sparavano e picchiavano i dimostranti con un pezzo di cavo d'acciaio. Vengono quindi avviati ben 4 processi. uno per il ferimento di Soriano Ceccanti, il secondo per il ritrovamento di una fantomatica auto nel cui bagagliaio sarebbero state ritrovate delle armi, il terzo a carico di 42 dimostranti dei 55 inizialmente arrestati, il quarto per i cosiddetti reati di stampa delle pubblicazioni pubblicate dai compagni per far luce sui fatti della bussola. Il 7 gennaio 1970 la Corte di Appello di Firenze emette la sentenza per il processo di secondo grado contro coloro che avevano partecipato alla contestazione davanti alla bussola. Vengono inflitte condanne per quasi 40 anni complessivamente di reclusione. Di fatto sono state accettate in pieno tutte le versioni date dalle forze dell'ordine e definiti i contestatori individui che hanno agito in grande numero nella loro azione di protesta contro pochi individui, comprese alcune donne. Il processo, tra virgolette, contro ignoti, per il ferimento di Soriano Ceccanti, che oltretutto non ha mai ricevuto una lira di indennizzo, è stato archiviato. Si conclude così questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!